siamo tutti pisani, grazie alla Rosciani. Più cultura e saggezza, grazie a Mauro Meazza. Sono due gioielli rari, quelli di due di denari. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Trovano a scuola un vecchio portafogli pieno di soldi e lo consegnano in presidenza. È accaduto proprio ieri mattina nel liceo scientifico Caccioppoli di Scafati, in provincia di Salerno, pochi minuti dopo la fine delle lezioni. Protagonisti della bella storia, che merita ovviamente di essere scritta, perché l'abbiamo trovata scritta e noi la raccontiamo volentieri, tre studenti di una classe quarta che non hanno esitato neanche un istante a segnalare ai vertici dell'istituto il ritrovamento del portafogli, appunto, con circa 300 euro dentro, nascosto sotto il banco in un'aula vuota. E buongiorno, caro Mauro. Buongiorno, cara Deborah. Cominciamo con delle belle notizie, ma non è la prima volta che a scuola degli studenti, degli adolescenti, si rendono protagonisti di questi gesti corretti, dovuti, onesti, che fa piacere raccontare. Ti ricorderai che qualche settimana fa avevamo segnalato addirittura la storia di un signore che aveva perso un portafogli con 20.000 euro perché doveva fare i regali di Natale. È stato trovato e restituito da due quattordicenni, i quali appunto non si sono fatti neanche una domanda, hanno semplicemente preso il portafoglio e riportato per la restituzione. Questo episodio era accaduto in provincia di Treviso. Tutto questo ci ha dato un ottimo assist questa mattina per introdurre l'argomento che affronteremo in questa giornata, visto che c'è grande agitazione all'interno delle famiglie italiane, quelle che devono decidere a che scuola superiore iscrivere i propri figli. E qua i giorni corrono e siamo arrivati vicini alla scadenza, perché alla fine del mese praticamente le iscrizioni dovranno essere completate. Allora, noi ci siamo già occupati di questa materia, era il 7 gennaio per la precisione, proprio qui alla ripresa, per così dire, delle attività operative. Noi in realtà, Deborah ed io, eravamo già qui a presidiare gli studi, ma proprio il 7 gennaio abbiamo fatto una puntata di Due di Denari dedicata a queste iscrizioni. Se volete potete anche riascoltarla successivamente andando sul sito www.radio24.it. Nella nostra sezione Due di Denari trovate anche le puntate precedenti riascoltabili. Segnalo che sul sito di Radio 24 potete ascoltare e scaricare anche la puntata speciale del 6 gennaio di Verso il futuro e oltre di Piera Ceci, dedicata proprio alla scelta delle scuole superiori. Quindi raccontiamo un po' tutto il pacchetto che abbiamo predisposto su questo argomento, che ha anche una versione cartacea che adesso Mauro vi andrà a descrivere. Però insomma, stamattina ritorniamo a dare tutte le istruzioni necessarie alle famiglie per poter fare correttamente questa operazione, perché le incertezze sono molte e soprattutto i criteri di scelta che guidano appunto le famiglie sono un po' disorientati dal fatto che ogni scuola in realtà ha un criterio di accesso anche alla scuola stessa diverso, e questo sta generando appunto un po' di perplessità da parte di chi deve scegliere. E allora 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per messaggi con SMS o anche con WhatsApp, che sappiamo essere abitualmente preferito. E se poi volete anche un supporto di tipo cartaceo, ma anche un po' digitale, abbiamo dato alle stampe per la seconda volta la guida alla scelta delle scuole superiori, guida 2020. È stato distribuito sabato con il Sole 24 Ore. Potete rintracciarlo anche sul sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. È una delle tante iniziative, devo dire, che tutto il gruppo Radio 24 e il Sole 24 Ore mettono in campo nelle varie stagioni dell'anno per la scelta delle attività formative della scuola, e nella speranza appunto che poi queste scelte siano anche proficue, nel senso della soddisfazione di chi le attua, la soddisfazione delle famiglie, ma soprattutto degli alunni, degli studenti, studenti anche per un loro futuro lavorativo. Allora, chi ci sta seguendo da Facebook penserà che sono impazzita. In realtà stavo facendo dei grandi gesti a Marco Lombardo affinché mi andasse a recuperare dalla scrivania l'inserto di cui stiamo parlando. Scuole superiori, guida 2020, questa è la seconda ristampa e la mostro molto volentieri agli amici che così potranno individuarla e andare a fare una descrizione molto accurata in edicola, appunto per poterla recuperare ed eventualmente appunto comprare. È in edicola, sì, ovviamente a pagamento con il Sole 24 insieme ore. Al Sole 24 ore, 50 centesimi più il prezzo del quotidiano, ma non facciamo l'abituale giornale radio del risparmio. Facciamolo, perché guarda, ci sono talmente tante notizie, un po' le abbiamo riprese da ieri perché non abbiamo fatto in tempo a darle tutte, allora via. Drin drin, edicola risparmio. She was walking in a bridal shop in Flushing, Queens, till her boyfriend kicked her out in one of those crushing scenes. What was she to do? Where was she to go? She was out on her fanny. Allora, The Nanny, questa è la babysitter, la tata famosa americana. Ieri, ti ricordi, Mauro, si è molto parlato nel corso dei vari giornali radio, ma in realtà a questa notizia hanno dato grande enfasi quasi tutti i giornali e i telegiornali. Si è molto parlato del rapporto Oxfam che scatta la fotografia delle disparità che pervadono il pianeta, ed è stato un rapporto divulgato in occasione del summit del World Economic Forum a Davos, che sta iniziando proprio oggi. Oxfam in questo rapporto però ha fatto anche un'altra cosa, ha acceso i riflettori sul lavoro domestico e su quello di cura non pagato che grava sostanzialmente sulle spalle delle donne. Nel rapporto annuale sulle disparità, l'ente no profit sottolinea che le donne a livello globale impiegano 12,5 miliardi di ore in lavoro di cura non retribuito ogni giorno, con un contributo all'economia globale che vale almeno 10,8 trilioni di dollari l'anno, 3 volte il valore del mercato globale di beni e servizi. E questo, insomma, è un tema assolutamente importante che riguarda molto da vicino anche il nostro paese. Sì, anche perché, cara Deborah, tu ricorderai che abbiamo avuto dei dati da Assindatcolf, che è l'Associazione Nazionale di Datori di Lavoro Domestico, e da IDOS, il Centro Studi e Ricerche, che ogni anno elabora e pubblica il dossier statistico immigrazione. C'è stata una ultima edizione presentata questa mattina a Genova e è stato dedicato un approfondimento specifico a una norma tecnica che introduce una importantissima novità, cioè la possibilità per i domestici di ottenere una patente di qualità. Quindi una sorta di colf, badante, babysitter che ha un patentino, un bollino di qualità, perché questa patente deve certificare le conoscenze, le abilità, le competenze in accordo con il quadro europeo delle qualifiche. Esiste infatti un quadro europeo stabilito appunto dall'Unione per quanto riguarda le qualifiche in possesso dei lavoratori, ed esiste una norma tecnica per certificarla anche per quanto riguarda colf, badanti e babysitter, un comparto che in Italia ha a che fare con 2 milioni e mezzo di famiglie e complessivamente impiega 2 milioni di addetti, il 70% stranieri. Gli impegni di famiglia, come sappiamo, si moltiplicano quando arriva un bebè, quando c'è il neonato, e allora, come sapete, la legge di bilancio ha introdotto un'importante novità, perché i lavoratori che diventano papà quest'anno avranno diritto a 2 giorni in più per la nascita o l'adozione dei figli, proprio perché l'ultima legge di bilancio ha esteso ulteriormente le misure a sostegno del padre lavoratore. Quindi per quest'anno è stato aumentato a 7 il numero dei giorni di congedo obbligatorio ed è stata confermata la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre. Tutto questo lo riportiamo, era sul Sole 24 Ore di ieri, ma non lo abbiamo ricordato, per cui andatevelo a recuperare perché ci sono tutti i dettagli di questa importante novità per chi l'avesse persa. E invece una notizia di cronaca che riguarda sempre l'ambito del welfare: ci sono i CAF, i centri di assistenza fiscale, che sono particolarmente sotto pressione. Perché? Perché entro la fine di questo mese, l'abbiamo già ricordato in qualche puntata di Due di Denari in questi giorni, entro la fine di questo mese oltre 1 milione di famiglie deve aggiornare l'ISEE, perché così non si vedrà sospeso, ad esempio a febbraio, il reddito di cittadinanza, certo, la pensione di cittadinanza. Ma in realtà questa del reddito di cittadinanza è solo una delle voci che si possono legare appunto ad avere un ISEE, un indicatore della situazione economica equivalente, aggiornato. Quindi cosa sta succedendo? Che ovviamente molti si stanno rivolgendo ai CAF, e i CAF faticano a tenere il punto, a dare appunto soddisfazione a tutti. Io credo, Deborah, ti lancio questa proposta, poi deciderai tu naturalmente, come succede sempre nelle coppie, per sì, cui è la lei... donna che dice l'ultima parola. Esattamente, però se non è il disturbo... Il peso decisionale cade sulle spalle delle donne. Il mio parere puramente consultivo è che dovremmo veramente fare una puntata anche prima della fine di questo mese di nuovo sull'ISEE. Sì, io invece ti dico che ne farei un'altra anche sul tema del diritto di famiglia, il famoso assegno di mantenimento. Perché d'altronde è colpa vostra, se continuate a scrivere di questo tema sul Sole 24 Ore, e a me questo tema interessa molto. Colpa nostra, nel senso di colpa di noi mariti, colpa di noi uomini. E no, vedi che ti senti sempre in difficoltà. Eh sì, ho la coscienza sporca. In questa parte. Coppia qua sei tu quello che fa il passo indietro, in questa coppia di conduttori. Allora, 10 maggio 2017, sentenza della Cassazione 11504, quella famosa che ha cancellato il principio del tenore di vita per la determinazione dell'assegno di mantenimento. Ovviamente da lì in avanti è successo di tutto nei tribunali italiani. L'anno successivo sono intervenute anche le sezioni unite della Cassazione, che ha un pochino rimodulato questo primo pronunciamento appunto della Cassazione, ma in ogni caso il tenore di vita è stato cancellato. Quindi se tu durante la tua vita matrimoniale come signora e consorte di un uomo molto benestante hai goduto di una condizione economica molto significativamente comoda, diciamo, benestante così, non è detto che con la separazione l'assegno appunto di mantenimento che ti deve essere riconosciuto, se il giudice decide in questa misura, deve essere un assegno che ripropone le stesse identiche condizioni economiche. Allora, che cosa è successo? Che da quella pronuncia in avanti molte separazioni già stabilite appunto dai tribunali sono state rimesse in discussione, perché molti signori si sono fatti avanti nel tentativo di rivedere le condizioni economiche inizialmente pattuite. Non è detto che il giudice dia sempre ragione e che rimoduli per l'appunto la prima quantificazione, perché l'archiviazione del principio del tenore di vita goduto durante il matrimonio non fa in automatico scattare il diritto alla revisione dell'assegno di divorzio se non sono cambiate le condizioni di fatto in base alle quali è stato determinato. Quindi abbiamo una nuova sentenza della Cassazione, la 1119 di quest'anno, che ha respinto il ricorso di un ex marito che ha invocato l'applicazione del nuovo orientamento per sospendere l'assegno alla ex moglie. Quindi ogni caso fa storia a sé, non c'è niente da fare. Non è detto che, essendo arrivata la prima famosa pronuncia che ha veramente traumatizzato il diritto di famiglia, da lì in avanti tutti hanno il diritto a chiedere appunto la revisione. Ci si può provare naturalmente, però non è detto che il giudice dia ragione. Anche perché, ed è il punto qualificante della sentenza di Cassazione, la richiesta di revisione si basava su eventi che già erano noti nel momento in cui è stato fissato l'assegno. Quindi la Cassazione ha detto sì, è vero che l'orientamento ha cambiato, ma non è cambiato con un effetto retroattivo. Quindi i fatti nuovi devono essere intervenuti dopo, cioè successivamente alla fissazione dell'importo dell'assegno. E allora, se non siete d'accordo con tutto questo, potete fare una cosa: ditelo a Due di Denari. Dillo a Due di Denari. Sono peruviano, vivo in Italia da 29 anni e sono sposato con 4 figli. 10 anni fa abbiamo fatto il mutuo con una rata di 1500 euro. E dopo un po' ho perso il lavoro e purtroppo non sono più riuscito a pagare le rate. Siamo andati in banca a chiedere l'abbassamento per farci abbassare le rate del mutuo e mi hanno detto di aspettare, e nel frattempo mi hanno detto di non pagare le rate. Dopo un po' mi sono arrivate le lettere dell'avvocato a casa dicendomi che io ero in ritardo dei pagamenti e che non sapevo niente. Hanno passato tutto alla banca e niente, adesso mi trovo con lo sfratto tutto. Siccome un po' di tempo ho sentito la radio che c'era una fondazione per fare, cioè per le persone che si trovano in difficoltà per pagare il mutuo, le rate del mutuo, e volevo sapere, solo che non mi ricordo il nome della fondazione e volevo un'informazione. Grazie, buongiorno. Adesso le spieghiamo tutto, però permettimi un piccolo editoriale, perché prego. Io vorrei veramente sapere il nome della banca che eroga un mutuo che strozza in questa maniera questa famiglia. Noi siamo sicuramente insopportabili quando andiamo in banca e pretendiamo ovviamente che questa ci accontenti in tutto, a costo di comprare la casa siamo disposti anche a sopportare un sacrificio economico di questo tipo, ma se generalmente spieghiamo che l'ammontare di una rata non deve superare il 30% del reddito complessivo percepito da tutta la famiglia, significa che all'interno di questa casa le entrate mensili dovevano essere di almeno 5.000 euro, non lo so, se in una famiglia di 6 persone un capo famiglia riesce... Con quattro figli poi, ecco, insomma, quindi... mi sembra difficile. Io lo auguro a questo signore, ma evidentemente c'è più di un motivo per dubitarne. Senti, allora facciamo informazioni di servizio. Sì. Dove può rivolgersi questo ascoltatore? Può certamente chiedere all'Associazione dei Consumatori Adiconsum di intermediare per lui, per chiedere al Fondo Prevenzione e Usura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, appunto, che dà la possibilità di abbattere il debito, se è molto consistente, appunto, oppure di revisionare un po' tutta la situazione economico-finanziaria, appunto, di una famiglia. Il Fondo Prevenzione e Usura del MEF, come funziona? Sostanzialmente preleva tutto il debito delle famiglie che si trovano in una condizione di grande difficoltà. Ci sono ovviamente criteri e parametri precisi a cui la persona in difficoltà deve rispondere, e poi sostanzialmente consolida il debito, lo prende lui, e tu poi restituisci il tuo debito, non è che te lo cancellano, ma lo restituisci direttamente al Ministero dell'Economia, ti allungano probabilmente la durata, e quindi ti rende il peso della rata mensile molto più sopportabile e sostenibile. In gergo si dice viene riscadenzato, cioè vengono riviste le scadenze del debito in modo che diventi anche più sopportabile. Quindi il primo sito dove collegarsi è www.adiconsum.it, poi c'è il Fondo di Prevenzione Antiusura, appunto, che risponde a questo numero di telefono 06 44 17 02 34, e potete scrivere una email prevenzioneusura@adiconsum.it. Tra l'altro, proprio i signori di Adiconsum ieri ci hanno raccontato di una storia che hanno risolto esattamente in questi ultimi giorni, una storia che vedeva come protagonista una vedova impiegata ora in pensione che da anni accudiva la mamma rimasta sola e senza lavoro, con in casa un fratello in grandi difficoltà tossicodipendente. Per 10 anni ha accudito anche la sorella affetta da un male incurabile, poi deceduta. Per fare tutto questo aveva accumulato un debito di 45.000 euro tra spese di base, affitto, utenze, carburanti, abbonamento ai mezzi pubblici, assicurazioni. Non è riuscita ad un certo punto più ad onorare i suoi debiti. Questa signora ha contattato il Fondo di Prevenzione del Sovraindebitamento, appunto, che Adiconsum, come vi raccontavamo, gestisce per conto del Ministero dell'Economia. Esaminate tutte le carte, sostanzialmente questa signora ha potuto stralciare parte del suo debito, che da 45.000 è diventato 21.000, che adesso dovrà restituire, appunto, in 10 anni, e quindi è diventata una situazione, come dicevamo prima, sostenibile. E noi presto, tutto questo per anticiparvi che presto dedicheremo una rubrica al tema in collaborazione con Adiconsum, proprio nell'ambito del nostro Dillo a due di denari. Sarà ora di andare a scuola? Andiamo! Ogni passo è una scelta, ogni passo fa l'impronta, quante cose spegne la prudenza. Ogni passo è in avanti. Allora, abbiamo tempo fino alle ore 20 di venerdì 31 gennaio. Bene. Però, fare che cosa? Per scegliere la scuola a cui iscrivere il figliolo o la figliuola. Chiamiamo subito in casa un esperto, perché a me queste cose mettono sempre un po' d'ansia, anche se ormai ho passato queste fasi, però ancora un po' di ansia residua mi resta. E allora, scomodiamo subito uno degli esperti mondiali che abbiamo ospite questa mattina, Daniele Grassucci, cofondatore e responsabile comunicazione di scuola.net, scuola scritto con la K naturalmente. Buongiorno Daniele, bentornato a Due di Denari. Buongiorno, bentrovati, e grazie per l'introduzione, oserei dire magistrale. Allora, dobbiamo scegliere entro il 31 gennaio. Già l'altra volta, il 7 gennaio, tu ci avevi ammonito: attenzione, potete cominciare ad andare a cercare, ad esempio, Scuola in Chiaro, ricordo bene? Assolutamente, ricordi bene, che è un portale ministeriale che è poco noto, però di fatto è una delle più grandi operazioni di trasparenza. Eppure è in Chiaro, ha fatto la battuta, esatto Daniele, non fa ridere nessuno. No, assolutamente, il problema è che poche famiglie fanno ricorso rispetto alla totalità. Ovviamente ce n'è una buona parte che lo conosce e va a spulciare proprio i cosiddetti rapporti di autovalutazione, che sono i pagelloni che la scuola in qualche modo è tenuta a compilare per dare un'immagine, secondo un format predefinito, di se stessa alla sua utenza. E quindi, come dire, attraverso Scuola in Chiaro è possibile ad esempio sapere di una scuola il contesto sociale. Sappiamo che ha fatto scalpore la vicenda della scuola del quartiere Trionfale a Roma, sì, in maniera molto candida ha ammesso insomma la suddivisione per classi sociali, che faceva una cosa quasi una presentazione per censo, no? Diceva venite da noi perché insomma noi abbiamo studenti di classi più agiate, per così dire, e non preoccupatevi che quelle un po' più disagiate le mettiamo da un'altra parte, non vi toccano neanche. L'abbiamo riassunta male, sicuramente la scuola, se è in ascolto, si lagnerà, però insomma la sostanza di come è stato percepito il messaggio poi era questa, ma non è questo rimosso, lo spirito. Sì, il problema è questo, che come dire, il contesto socio-economico è una delle, la descrizione quindi del contesto socio-economico è una delle parti integranti del rapporto di autovalutazione, solo che normalmente è nascosto, non si va a spulciare nessuno, quindi fa poco. In questo caso la descrizione è già una bella vista sulla homepage della scuola, quindi è stato molto facile. Abbiamo, Daniele, abbiamo un problema sì, di collegamento, per cui ti sentiamo un pochino a strappi. Allora, guarda, facciamo così, siccome siamo quasi in orario di borsa, chiedo alla regia e a Marco Lombardo di rimetterci in contatto con Daniele Grassucci mentre diamo gli aggiornamenti sui mercati finanziari. Vi ricordo che sul sito di Radio 24 è a disposizione la nostra puntata del 7 gennaio, che in edicola potete ancora trovare la seconda ristampa della guida alle scuole superiori, e rimetteremo anche a disposizione sempre sul sito di Radio 24 lo speciale fatto dalla collega Maria Piera Ceci proprio sulla scelta della scuola. Tutto ciò premesso, cara Debora, anche se abbiamo una ventina di secondi di anticipo, le borse non si sono mica addormentate, no? Non si sono distratte. Denaro non dorme mai, lo sai. Caspita, e allora le borse? Siete un megafono per i poteri forti economici e politici. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Due di denari. A te la scelta su chi sarai, a te la scelta su dove andrai. Però scusate, ma non può essere colpa se dalla banca che dal mutuo. Anche loro, i loro ragionamenti potevano farseli. Cioè, non scarichiamo sempre le responsabilità sulla banca, per forza. Di nuovo qui. Vabbè, e ci ritorneremo su questo argomento, viene sempre un po' l'onerosità forzato della rata. Vabbè, sì. io dico che comunque se una banca qualche volta ti dice un sano no, poi adesso devono riprendersi la casa, anche per la banca è un costo fare questa operazione, rimetterla sul mercato magari ad un valore molto diverso rispetto a quando la compravendita è stato fatto, non ci rifanno neanche del mutuo erogato a questa persona. Quindi io penso che se anche dalla banca avviene un'operazione di erogazione più intelligente, come fanno molti peraltro, non conosciamo esattamente qual è la situazione del signore che ci ha telefonato, che ha chiamato Dillo a Due di Denari per segnalarci la sua situazione, però quanto volevamo sottolineare con Debora è, attenzione, prendersi degli impegni appunto pluridecennali come può essere un mutuo e per rate di una certa importanza, lì questo ascoltatore parlava di 1500 euro mensili, c'è un concorso di colpa lì è evidente, cioè. Che sarebbero difficili da sopportare anche per così retribuzioni molto cospicue, molto generose, quindi ci sembrava così che forse dall'una parte e dall'altra ci fossero state delle leggerezze. Un sano no è educativo, come in famiglia con i figli: voglio fare il liceo? No, ti faccio fare l'istituto tecnico perché il mondo del lavoro oggi richiede certe professioni, e chissà che non sia una buona cosa. Caspita, che gancio che hai trovato. Allora, approfitto di questo per dare il benvenuto negli studi, bentornata negli studi a Francesca Barbieri, collega del Sole 24 Ore, grande esperta di scuola, tra l'altro, e di lavoro, perché Francesca, io so che tu hai queste due passioni, giusto? Sì, esatto, grazie Mauro, buongiorno a tutti. Allora, stiamo parlando con Francesca Barbieri e con Daniele Grassucci della scelta per il primo anno di scuola di un ciclo scolastico. Infanzia esclusa, perché la domanda per la scuola dell'infanzia resta cartacea. E si presenta direttamente all'istituto prescelto. Ma per tutte le altre, gli altri gradi dell'istruzione, invece, bisogna passare, salvo che per le paritarie che potrebbero ancora andare cartacee, ma adesso chiediamo conferma subito ai nostri esperti mondiali, Per tutte le altre, dicevo, bisogna passare attraverso la procedura online. Daniele Grassucci, funziona bene questa procedura? Cioè ci sono, di solito quando ci sono le cose online c'è sempre qualche lamentela, non va, non funziona, si pianta il sito. Io intanto comincio con il ricordare il portale www.iscrizioni.istruzione.it. Daniele. Bisogna dire che questa è una procedura che ormai adottiamo dal 2012-2013 come anno scolastico di riferimento. È uno dei lasciti del governo Monti, perché insomma è stata un'innovazione di profumo, no, del ministro dell'istruzione del tempo, insieme appunto al registro elettronico. E nel primo anno effettivamente ci furono dei problemi, soprattutto perché le persone si affrettarono a completare la procedura di iscrizione nei primi giorni. Quindi la paura della, insomma, la novità li spaventò al punto da portarsi avanti in un vero e proprio click day. Adesso insomma i sistemi sono più stabili, i carichi, quindi l'accesso dell'utenza è un po' più distribuita, perché un po' tutti stanno capendo che appunto c'è tempo fino alla fine del termine per potersi iscrivere, e questo non costituisce, diciamo, l'ordine d'arrivo delle domande un criterio, per cui ecco le cose stanno andando molto bene. Poi ricordiamo che le famiglie che non sono in grado o non hanno gli strumenti da un punto di vista tecnico di completare la domanda possono recarsi nella scuola in cui vogliono iscriversi e ottenere assistenza. In questo senso c'è una mappa dell'Italia che è un po' quella del digital divide, ovvero ci sono le regioni del nord soprattutto in cui la percentuale di famiglie che riescono a completare la domanda in autonomia sono oltre l'85%. Ci sono regioni soprattutto a sud dove non si arriva al 40%, per cui, come dire, è un qualcosa che è stato metabolizzato, ma non in tutta Italia. Allora, ci arrivano molti messaggi sul 349-238-6666, oggi probabilmente piace di più del 80024-0024 esatto, per intervenire in diretta. Tra gli altri, cara Debora... Sì, ce ne sono un paio interessanti. Allora, uno, problema, ci segnala Carlo, orientamento scolastico. In genere viene fatto correttamente, ma i genitori non lo rispettano perché... non accettano i limiti dei propri figli, quindi non sempre, ma molto spesso, chi viene indirizzato, per esempio, al professionale va comunque a scegliere un indirizzo tecnico, che viene orientato ad un tecnico, spesso comunque si ostina ad andare al liceo per poi essere ovviamente sospeso, non ammesso alle classi successivo. Io sono un docente e lo vedo ogni giorno. Francesca, il tema dell'orientamento è centrale, anche se teoricamente avremmo dovuto come famiglia affrontarlo prima di questa fase delle iscrizioni. Sì, esatto, è fondamentale il tema dell'orientamento, e le famiglie hanno, come dire, avuto il tempo di informarsi, soprattutto agli open day che ogni scuola organizza. Però c'è ancora una buona fetta di indecisi che ancora adesso non ha ancora deciso come iscrivere il figlio a quale scuola, perché c'è tempo, lo ricordo, fino al 31 di gennaio alle ore 20. E quindi a questo punto, cioè, è chiaro che i ragazzi sono ancora piccoli per poter, come dire, capire, no, in maniera chiara quale sarà la loro scuola del futuro. Un giorno vogliono fare i medici, il giorno dopo gli scrittori, e quindi ma il punto di partenza secondo me è il consiglio orientativo della scuola, perché comunque le famiglie hanno modo di vedere il punto di vista degli insegnanti che quotidianamente hanno a che fare con i figli, per cui non è che deve essere preso, diciamo, come la regola da seguire, però possono partire da quello cercando di confrontarsi tanto anche con il proprio figlio. Un istituto tecnico della moda vi sembra una buona scelta? Zona Scandicci, Firenze, ci scrive Leo. Per me sì, noi abbiamo fatto anche una trasmissione di Dov'è il nuovo lavoro dedicato alle professioni della moda, ed effettivamente c'è grandissima richiesta, perché anche questo è un settore che, per quanto sia affascinante e glamour, in realtà ha bisogno anche di persone che lavorino in ogni passaggio appunto della filiera, e quindi c'è bisogno di tante professionalità. Anche questo è un settore che si sta riqualificando per merito del 4.0, quindi molte professioni nuove anche nell'ambito della moda, che è un grande ambito del Made in Italy. Certo, molto c'è grande richiesta. È chiaro che anche lì il ragazzo deve avere, come dire, la predisposizione, no? Deve essere portato per fare quel tipo di attività. Quindi diciamo, ogni famiglia deve un po' fare i conti con quel proprio figlio, capire per cosa hai portato di più. Non è semplice, ci sono passata anch'io con i miei figli, per cui non è assolutamente facile. Però, e la scuola superiore, tra l'altro, Francesca, mi sembra quella più delicata di tutte, perché è lì un po' che si gioca anche il futuro, se vogliamo, professionale, lavorativo del ragazzo, della ragazza. Sì, certo, soprattutto se si punta verso una scuola tecnica o verso un istituto professionale, è chiaro che alla fine dei 5 anni c'è già l'opportunità di trovare lavoro senza dover affrontare il percorso universitario. Questo non significa che tutti coloro che fanno il tecnico e il professionale poi non vanno all'università, anzi c'è una buona percentuale. Assolutamente, ma se c'è determinazione, insomma, propensione allo studio, secondo me i ragazzi possono fare tutto. Ci scrive Alessandra da Milano, che salutiamo. Allora, vorrei capire una cosa che sta creando, secondo me, difficoltà a tutti i genitori che conosco e che stanno insieme a me valutando l'iscrizione al liceo. Il tema dei criteri di accesso, perché, ci racconta Alessandra, ogni liceo ne ha uno e spesso cambiano da un anno all'altro. Ma con quale logica fanno questo cambiamento? Perché c'è questo continuo cambiamento? Ad esempio, fino a 2 anni fa uno dei principali scientifici di Milano dava accesso al 50% degli studenti tramite un test, al restante 50% con estrazione a sorte. Poi improvvisamente il test è stato tolto. Perché? Dall'altra parte, uno dei principali artistici sino allo scorso anno inseriva come criterio la territorialità. Quest'anno si guarda invece la media dei voti, ma non fa più contare per niente la territorialità. Allora spiegatemi, perché invece non ho figli da mandare al liceo e tutto questo faccio fatica a comprendere. Ti dirò di più, oltre ad Alessandra ci scrivono anche altri ascoltatori sollevando più o meno lo stesso tema, cioè uno si iscrive, poi la scuola ha degli esuberi, viene dirottato, non capisce bene sulla base di che cosa viene dirottato su altri istituti magari più lontani o meno preferibili, ecco, per dir così. Daniele Grassucci, aiutaci a dare un po' di chiarezza. Allora, in realtà questo, diciamo, ciò che descrivono gli ascoltatori è assolutamente normale, perché il Ministero fornisce, attraverso la circolare che ogni anno viene pubblicata, delle indicazioni di massima su quelli che debbono essere i criteri di selezione, però poi sono le singole scuole, attraverso i consigli di istituto, a decidere quali siano questi criteri. C'è da dire che il Ministero su alcuni di quelli che sono stati citati li sconsiglia, ad esempio il ricorso ai test d'ingresso viene assolutamente sconsigliato dal Ministero dell'Istruzione, il quale però si limita in qualche modo a dire che questi criteri debbono essere ragionevoli, e ad esempio l'estrazione a sorte in qualche modo viene considerata come un'estrema ratio, per cui la scuola che ad esempio selezionava metà dei ragazzi col test ingresso e l'altra metà con appunto l'estrazione a sorte molto probabilmente ha cambiato questi criteri anche alla luce delle nuove indicazioni del Ministero dell'Istruzione nella circolare delle iscrizioni. Però una cosa molto importante, le famiglie possono conoscere quali sono i criteri di selezione prima di inoltrare la domanda, perché le scuole sono tenute a deciderlo prima, non ad iscrizioni in corso. E peraltro, quando si inoltra la domanda di iscrizione, c'è nel modulo una sezione personalizzata, anzi personalizzabile da parte di tutte le scuole. In quella sezione ci possono essere delle indicazioni, tra cui anche quelli che sono i criteri di selezione. Il consiglio che noi ci sentiamo di dare è questo, di prendere contatto direttamente con la scuola e cercare anche di capire un po' quella che è la tendenza delle iscrizioni, per capire se il proprio figlio potrà o meno rientrare. Ad esempio, cioè uno dei licei più gettonati della Lombardia, che è il Tosi di Busto Arsizio, che già il primo giorno di iscrizioni, quindi il 7 gennaio, aveva già esaurito posti, cioè nel senso sono arrivate più domande di quelle che era possibile soddisfare. Ovviamente poi la selezione si farà il 31 gennaio, dopo le 20 si vedrà chi rientra nei criteri e chi no, per cui se io sono un genitore che al 20 gennaio devo ancora iscrivere mio figlio a scuola, potrei fare una telefonata alla scuola che ho scelto come prima della lista per potermi informare e capire quante probabilità ho di entrare. Di essere o non entrare. Scelto. Esatto. Peraltro, ecco, c'è un criterio di precedenza che comunque invece le scuole sono tenute a in qualche modo invece a tenere in considerazione. Aspetta, Daniele, ce lo racconti fra un attimo, perché adesso? Sì, è il momento del traffico. Hai qualcosa da dire in tema di soldi? Allora, dillo a Due di Denari, la nuova rubrica in cui ogni pensiero conta. Domande, opinioni, commenti a ciò che va in onda e suggerimenti per le prossime puntate. Inviaci una nota vocale al 349-238-6666 nel corso della diretta. Oppure scrivici in qualsiasi momento a duedidenari@radio24.it. Due di Denari. Io so qual è la scelta giusta per me. Scusate, secondo me il discorso è estremamente generalizzato, quello del della scuola che deve decidere per l'alunno. A me in terza media avevano indicato il professionale, poi mi sono laureato in giurisprudenza, quindi è estremamente delicato e poi necessita assolutamente del punto di vista del ragazzo, insomma, cioè le inclinazioni, le attitudini, i desideri, comunque secondo me a quell'età non possono essere non considerati. E infatti per questo ricordate è importante anche di inoltrare la domanda, non solo di salvarla, perché molti genitori sono un insegnante delle scuole medie, non inoltrano la domanda e si ritrovano magari all'ultimo giorno credendo di aver iscritto i figli e così non è. Ciao. Scusate, pensavo ci fosse un solo WhatsApp, invece no, erano doveva due. Parlare ancora l'insegnante della media, quindi la professoressa della media, che giustamente ci diceva ricordatevi, salvate la domanda ma poi mandatela anche fisicamente che non si manda da sola, ecco. Però abbiamo interrotto Daniele Grassucci, sì, che ci stava dicendo c'è un, però un criterio di selezione che le scuole devono rispettare, esatto. E che qual è, Daniele? Beh, negli istituti comprensivi, quindi gli istituti che al loro interno agglomerano più cicli di istruzione, se uno studente decide di passare da un ciclo successivo all'interno dell'istituto comprensivo, questo costituisce un criterio di precedenza, per cui sono iscritto alla scuola dell'infanzia in un istituto comprensivo, voglio andare alla primaria, bene, se rimango all'interno dello stesso istituto comprensivo ho un criterio di preferenza rispetto a chi invece viene da fuori rispetto a quell'istituto complessivo, per cui ecco, questo aiuta in qualche modo le famiglie anche a semplificare la scelta ed è in favore della continuità didattica, anche se cambiano gli insegnanti il ragazzo si ritrova, anzi il bambino, insomma comunque il giovane si ritrova comunque all'interno dello stesso ambiente, quindi ad esempio questo è un elemento da tenere in considerazione soprattutto se si ha paura magari di andare a finire in una scuola che non ha molti posti disponibili. Certo. Allora, il tema invece del quante scelte puoi fare, Francesca, ti puoi iscrivere, hai una prima scelta, scegli un liceo, vuoi andare lì assolutamente, ma è un potenziale liceo in overbooking come alcune scuole che abbiamo indicato poco fa. Quindi quante scelte possono fare le famiglie, con che criterio poi si passa la seconda, la terza? Si possono fare fino a 3 scelte. Nel momento della registrazione comunque la famiglia indica un indirizzo email e quindi viene informata di ogni cambiamento, nel senso quando salva la domanda, poi la domanda viene inviata per ogni, diciamo, cambiamento dello stato della domanda di iscrizione, comunque la famiglia è informata all'indirizzo di posta elettronica. Una volta che la domanda è stata inviata e una volta che come dire, la prima scuola, mettiamo che la prima scuola non abbia accettato la domanda, alla famiglia viene data tempestiva comunicazione di questo e la domanda viene girata alla seconda scuola, indicata in ordine, quindi prima, seconda e terza. Naturalmente l'ascoltatore che ci aveva lasciato il messaggio proprio in riapertura di questa parte di puntata sollevava un punto che immagino tormenti molte famiglie, personalmente aveva tormentato anche me all'epoca. Va bene l'orientamento, ci fidiamo, tu giustamente ci ricordavi, Francesca, gli insegnanti vedono i nostri ragazzi e le nostre ragazze molte ore tutti i giorni e quindi abbiamo motivo di fidarci di loro e della loro indicazione, però è anche difficile, specialmente per la scelta dei superiori, che a 13-14 anni un ragazzo o una ragazza abbiano già così chiari gli obiettivi, le aspirazioni a cui vogliono arrivare. Allora come si può anche cambiare idea a un certo punto? È una cosa che comporta, non so, voglio lasciare un certo ciclo, entrare in un altro ciclo, devo rifare tutto da capo con questa domanda? Sì, è sicuramente difficilissima la scelta, come dicevo prima a 13 anni è molto complicato, bisogna tenere conto di tutti i punti di vista, cioè di quelli dell'insegnante, di quello del ragazzo, delle sue attitudini e aspirazioni, però è chiaro che si può cambiare se la scelta poi si rivela sbagliata, quindi dipende dai tempi, diciamo che i primi 3 mesi di scuola sono quelli più significativi. E le scuole stesse, se vedono che il ragazzo sta andando male, convocano poi le famiglie per un confronto e si può arrivare anche a cambiare scuola. Quindi se questo viene fatto in corso d'anno è possibile, soprattutto nei primi mesi dell'anno scolastico, passare da una scuola all'altra. Chiaro che più passa il tempo più sarà complicato, però non è impossibile. Allora, ci sono tantissimi messaggi che stanno arrivando e come potete capire, siccome l'argomento è delicato, c'è chi argomenta molto la sua riflessione al 349-238-6666. Ne stavo leggendo qualcuno che riguardava un po' la delusione relativa agli Open Day. Qualcuno dice, vabbè, servono molto spesso queste giornate più che ad orientare a vendere la scuola e non tanto a chiarire le idee ai ragazzi, però insomma siamo degli adulti e magari riusciamo anche a capire quando questo avviene, quando invece c'è un reale spirito di servizio per la famiglia, certo. Francesca, no? Ma poi c'è anche un'altra possibilità che le scuole medie propongono ai ragazzi, che è quella di svolgere degli stage nella scuola in cui vorrebbero andare, quindi sono delle giornate in cui i propri ragazzi vanno, stanno lì una mattinata o tutta la giornata a fare le varie attività nella possibile scuola superiore. Questo ci serve a far capire che l'orientamento è una come dire, operazione che può durare diverse settimane, non ci dobbiamo ridurre all'open day, alla visita nelle varie scuole appunto prescelte della nostra città o meno per fare poi maturare la scelta finale. Infatti chiedo conferma a Grassucci, anche se siamo proprio in chiusura, in realtà l'orientamento comincerebbe addirittura dalla seconda media, se ricordo bene. Ma in teoria sì, in pratica c'è un tema che è una disciplina talmente delicata che in realtà andrebbe assegnata la responsabilità specifica ad un ente, mentre come avviene spesso nella scuola, se una materia non ha un voto, se un'attività non ha un voto, praticamente non la fa nessuno. È successo così con l'educazione civica, la legge che l'ha reintrodotta di fatto ha stabilito una cosa che già c'era precedentemente, ovvero che si doveva fare educazione civica, solo che avendo stabilito un voto, allora ha messo un po' tutti sull'attenti. L'orientamento è un po' così, lo dovrebbero fare tutti, si dovrebbe fare in maniera precoce, però non essendoci una responsabilità precisa e un monitoraggio altrettanto preciso, alla fine viene lasciato un po' così alla buona volontà e all'iniziativa dei singoli, delle singole scuole o dei singoli docenti, e chiaramente in un mondo che diventa sempre più complesso non può bastare. Per favore non fate passare i tecnici industriali come scuole di serie B, adesso io la chiudo qua perché nessuno ha detto. Anzi, abbiamo cercato di dire che tutte le scuole hanno pari dignità invece scegliere il percorso più soddisfacente, più adatto per tutti. Bene. Vi lasciamo con la versione di Bang Bang. Di chi? Oggi Marco Lombardo ha trovato la prima traduzione in Italia, cioè quella di Milena Cantù, la ragazza del clan. Torniamo domani. La versione napoletana voglio. Allora.